Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, benvenuti, benvenuti in frequenza. Questa è Blu Radio Veneto, all'interno della programmazione serale nominata Blu Radio Sera. Un ben sintonizzati a tutti da parte di Flavio Bilato e da chi è insieme a me conduce la trasmissione, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Ricordiamo che Maurizio è sempre un personaggio notturno, per cui lui si sveglia a quest'ora e conduce trasmissioni fino al mattino, si può sì, dire. Sì, fino alle 4 possiamo fino dire. Fino alle 4 al mattino, sì, perché tra una cosa e l'altra diciamo che la tua presenza è sempre... molto continua nel tempo. Allora, 21 e 2 minuti primi, diamo anche il benvenuto all'ospite che ci farà compagnia in questa serata, Maurizio. Sì, abbiamo direttamente da Vittorio Veneto, esatto. Come si pronuncia? Lala Beer? Lala Bayer. Lala Bayer, perfetto. Lala Bayer, che significa, se non sbaglio, un canta ninna nanne. Esatto, un ninna nannaro. Un ninna nannaro, si può dire così comunque. Vabbè, suona meglio, diciamo, all'inglese, quindi Lula Bayer, eccolo qua. Allora, Lula Bayer arriva comunque qui dal Veneto. Sì, da Vittorio Veneto. Benissimo, quindi da Vittorio Veneto abbiamo fatto un po' di strada per venire. Un'oretta di strada, sì, vogliamo dirla. Poi l'autostrada, se è libera, insomma, da una percorrenza, e anzi un tempo di percorrenza davvero ottimo. Allora, Lula Bayer è con noi questa sera per presentarci il suo ultimo lavoro, che si intitola Verità rivestite d'ombra. Allora, da dove partiamo? Intanto cerchiamo di capire chi è Lula Bayer e quando è nato artisticamente parlando. Beh, come solista ho cominciato a suonare nel 2009, quando dei ragazzi che suonavano con me, per un motivo o per l'altro, non hanno più continuato. Per un motivo ben preciso, che eravamo all'università e quindi dopo un po' bisogna andarsene. Quindi le band universitarie durano un certo periodo di tempo e poi basta. 5-6 anni, se tutto va bene. Poi dipende se uno riesce anche ad attivare la forma di rallentamento di denaro, insomma magari la band può continuare, esatto. Ma se è solo passione... Noi non ci siamo riusciti. Questo... Ecco, nella prima versione però può essere che nella seconda versione, questa di Lala Bayer, ci sia ampio spazio anche per, diciamo, non solo la passione, anche per qualcos'altro. Beh, com'è partita la cosa? È partita, cioè, storicamente, chiedi? Storicamente, sì. Storicamente diciamo. È partita che ho cominciato a registrare da solo, perché non avevo più i compagni. Quando sono tornato, studiavo a Udine, quando sono tornato a Vittorio ho cominciato a suonare da solo, e tramite MySpace, che una volta era un bel sito in cui si poteva avere un sacco di contatti con etichette. Adesso un po' meno, dice. Sì, adesso è praticamente bloccato, conosco un sacco di persone che non riescono neanche più a farlo funzionare, non so perché. Comunque un'etichetta americana, che è la Silver, mi aveva mandato una mail dicendo se avevo voglia di partecipare con una canzone a una compilation che loro fanno gratuita, annuale, a Natale. E ovviamente gli ho detto subito di sì, perché... questa era l'etichetta, è tuttora l'etichetta che ha prodotto il disco solista del cantante dei Low, che è il gruppo che mi ha ispirato più di tutti, quindi sì, ho detto, non ci ho pensato due volte e da lì è andata bene. Quindi vuol dire che qualcuno già conosceva il tuo nome, conosceva già la tua forma di musica? Sì. Cioè, le voci giravano da quelle parti. Tutti, perché saremo in... un centinaio di persone al mondo che sono la nostra sbobba. Quindi vista la particolarità dell'argomento, sei stato naturalmente selezionato, esatto. Comunque tra queste 100 persone, esatto, insomma, esatto. Quindi, voglio dire, mi è andata bene. Assolutamente, è andata bene. Allora, l'album è Verità rivestite d'ombra. Con il perché di questo titolo innanzitutto, poi andremo ad ascoltare titolo, anche un primo pezzo. Il titolo, così come una canzone dell'album, che sarà la prima che dopo ascolteremo, è ispirato a Neil Gaiman, che è uno scrittore inglese, che è noto per l'attività nei fumetti. Lui è l'autore di un fumetto di culto degli anni 90 che era Sandman. Adesso ha fatto anche il romanziere, ha scritto anche sceneggiature per alcuni film recenti tipo Beowulf o Coraline o Stardust, e insomma In Sandman diceva che le storie e i sogni sono verità rivestite d'ombra che sopravviveranno quando i fatti saranno polvere, cenere e oblio. E mi piaceva questa frase, mi è sempre piaciuta, e mi piaceva l'idea che le mie canzoni potessero essere storie e sogni. E l'ombra è anche collegata, l'ombra, al tuo genere musicale. Ovviamente sì. Ovviamente sì, così lento, sound, così introspettivo, cioè abbastanza, proprio lentissimo nel senso positivo del termine. Ma poi lo apriremo, cominceremo a capire perché hai amato e continui a amare questo genere musicale. Certo, allora Maurizio, direi che possiamo subito cominciare ascoltando un primo pezzo da disco, anche se ricordiamo i nostri ascoltatori che Lulla Bayer si fa accompagnare anche da una sua bella chitarra che più tardi presenteremo, sia col nome sia sentendone anche il suono. Intanto sì, intanto allora ci ascoltiamo il primo pezzo, tanto per capire qual è la musica che gira questa sera a Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. confermate allora, sono proprio atmosfere cupe, minimaliste, quelle che abbiamo detto già all'inizio di trasmissione. Il primo pezzo che è girato sul nostro CD numero 1, CD player numero 1, è Calliope, tratto da Verità rivestite d'ombra, a presentare questo album. Abbiamo con noi in diretta in questa serata Lula Bayer, al quale diamo ancora il benvenuto. E allora, Calliope, questa è la dea della poesia, una delle figlie di Giove. È la musa della poesia, esatto. Il tema è tratto da un racconto del solito Gaiman. In questo racconto, un omaggio vuoi fare a Gaiman? Sì, sì, sì, assolutamente. E in questo racconto c'è uno scrittore in crisi di identità che riesce a trovare il modo di andare sul monte Elicona, dove secondo il mito vivevano le muse. Ne rapisce una, Calliope. Sì, poi promette naturalmente che la riporterà indietro. No, è un racconto molto cattivo. Rapisce per anni, la segrega in casa per ottenere tutta l'ispirazione, però alla fine ottiene più di quanto volesse, perché violentando questa musa, la sua mente viene annebbiata da un sacco di ispirazioni letterarie, finché non gli si fonde la testa in un modo o nell'altro. Comunque ne ha troppa, quindi è anche un monito a non chiedere troppo. Beh, certo. Attenti a cosa volete. Possiamo dire che la tua musica è di una lentezza introspettiva, non so se è giusta questa definizione che abbiamo inventato io e Flavio prima di andare in trasmissione. Una lentezza introspettiva perché nasce da una forma musicale americana di culto, ma non proprio di culto, almeno in Europa sì di culto, in America è un po' più allargata, era la slowcore. Esatto. Cioè, da dove nasce l'amore per lo slowcore, oltre che l'amore che tu hai per i leader dei low? È difficile dirlo. Con i Low, dai Low nasce il mio amore personalmente, anche dai Red House Painters. Un altro gruppo lentissimo, Flavio, lentissimo, ma assolutamente affascinante per me. Sì, li ho scoperti più o meno insieme, e tanti trovano la loro musica triste. E in realtà l'ho trovata subito rilassante. E vorrei che anche la mia potesse essere considerata rilassante più che triste, perché se una persona già triste ascolta questa musica che lo intristisce ancora di più, non ha senso, mentre dovrebbe essere una cosa che rilassa. Una sorta di Scaruffi, che è un critico. Sì, un grande critico, ha fatto un sacco di cose, ha fatto proprio delle enciclopedie su questo. Delle enciclopedie di rock. Esatto. Ha detto che ha definito la musica dei Low come la musica new age suonata da un gruppo rock. E ci azzecca abbastanza come definizione, secondo me. Il disco nuovo è bellissimo. Sì. Bellissimo, uno dei dischi migliori, sicuramente forse il migliore che hanno fatto, a mio parere. È di grande elevatura. So, è una bella lotta. È una bella lotta, è di grande elevatura. E loro è un gruppo di culto, ma è un culto. Un culto che il successo si è allargato finalmente. Sì. Non proprio di culto, anche se rimangono un certo di elite, chiaramente. Mm-hmm. Allora dobbiamo anche spiegare un attimino all'interno della copertina, perché non parliamo solo di musica, ma parliamo anche di quello che è l'impatto anche visivo che riguarda il lavoro. Ci sono delle fotografie, diciamo, in bianco e nero, quindi ad infittire ancora di più quella che è la parte un po' cupa di cui abbiamo parlato prima, e in principio, e si vedono delle verità rivestite d'ombra, esatto. No? Proprio come hai chiamato tu il CD. Parte da una bicicletta all'ombra forse di un albero, si può dire, è una bicicletta che per metà è dentro un canale, che tra l'altro è un canale qua di Padova. Tengo a dire che la copertina e tutto il booklet è di un mio amico che si chiama Sebastiano Girardello, di Vittorio, che studia qui a Padova. E quella foto è stata, credo, proprio fatta in un canale qua di Padova, e c'è questa bici per metà sepolta dal canale fangoso, e sopra di essa c'è l'ombra di un albero, di qualcosa che sta crescendo, e mi sembrava perfettamente azzeccata. Benissimo, cercheremo anche di capire in che canale è, visto che siamo da queste parti. È vero, Flavio, hai ragione. Assomiglia molto al Piovego in questo caso. Però, ovviamente sì, è quello. Sì. Bene, suoniamo qualcosa, cosa dici? Sì, sì, allora presentiamo prima la chitarra, ne hai portata una di veramente, questa veramente chitarra, carina. Vogliamo spiegarla ai nostri ascoltatori con cosa suonerai stasera? È nuovissima, e è la mia grossa soddisfazione dell'estate. anche economica, sì, ma qualcuno mi fa il cenno che sì. Sì, beh, sì, però neanche così tanto come può sembrare. È una Epiphone, non una Gibson, comunque semiacustica nera, una Epiphone Dot, e ha un bellissimo suono, secondo me. Allora lo ascoltiamo. Cosa ci proponi, Lullaby? Ti propongo Desiderio, che è il secondo pezzo, la traccia 2 del CD. Bene. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E rigorosamente dal vivo ci siamo ascoltati questo pezzo, si intitola Desiderio. A suonarla qui in diretta dei nostri studi di Blu Radio Veneto è Lalo Bayer, dal suo CD che si intitola Verità rivestite d'ombra. Allora, questo desiderio, come hai voluto raffigurarlo, Lalo Bayer? Di solito per un desiderio c'è un qualcosa, forse un'atmosfera dovrebbe essere un po' più allegra, no? In realtà è fumoso, sì. perché pone sempre tanti dubbi. E averne troppo ti porta a non sapere mai quello che vuoi davvero, perché non sapere mai cosa fare, non riuscire a prendere una decisione. Quindi desideri tanti ma effimeri, nel senso che svaniscono subito di fronte magari a una possibile controindicazione della propria mente. Esatto. Possiamo definirla così. Non bisogna darci poi così tanto peso. Fondamentalmente il senso dovrebbe essere quello. Abbiamo sentito anche una chitarra in questo caso molto, molto avvolgente. Qual è la differenza da un punto di vista da incisione col CD e questa versione che ci hai voluto regalare live? Beh, è molto diversa. Primo perché ho una chitarra completamente diversa. Quella del CD è fatta con un'elettrica, una Stratocaster molto effettata, elettrica, piena di effetti e piena di effetti, però molto più scheletrica perché è arpeggiata. Mentre così mi piaceva fare un suono più pieno, dato che questa qui è anche autoriverberata, diciamo, naturalmente riverberata. È anche una chitarra, tra altre cose, che si presta molto volentieri anche per il jazz. Tecnicamente sì. Però è una chitarra che è anche culto da un certo punto di vista proprio per questo genere, perché in tanti la suonano, a partire... Non so se sono già stati nominati Galaxy. No, li nominiamo in questo momento con grande onore, sì. Li nominiamo assolutamente, che forse sono i padri di questo genere, sì. Anche se noi a microfono spento, Flavio, avevamo parlato che del place di underground, quindi dei gruppi, dei Rain Parade, che sono i padri in assoluto del genere, e poi tanti rivoli, tanti fiumi che hanno portato a questo genere cosiddetto slowcore. Ma volevo sottolineare, Flavio, questo pezzo fatto da nostro artista l'hai rallentato ancora di più, perché il desiderio musicalmente nel disco era molto vicino alla critica, io sono d'accordo con loro, molto vicino a certe sonorità iniziali di Cotto Twins, soprattutto all'inizio, poi riprendi il tuo tema, però all'inizio si esplorava la fuoriidea assoluta. È vero. Il genere musicale da fuoriidea è quasi un come potremmo chiamarlo, un dream pop. Esatto, un dream pop che poi però svanisce, è solo la fase iniziale, poi chiaramente prendi sopravvento te assolutamente. Però c'è questo dream pop iniziale che è molto positivo, e tutta la critica lo ha sottolineato, e dobbiamo sottolineare appunto che positiva il tuo disco, i tuoi dischi, perché non parliamo solo di questo, ce ne sono altri, sono stati tutti giudicati positivamente dalla critica nazionale. Sì, è vero. È un grande onore per questo, te, un grande, e questo è un grande onore, perché con tutto quello che parla la critica ultimamente, sai che sì, una volta che parlano bene di qualcosa ci si deve anche credere, e ci crediamo anche noi dopo aver sentito questo tuo lavoro davvero particolare. Ricordiamo che questo disco è uscito nel 2011, si intitola Verità rivestite d'ombra, però disponibile nel nostro sito internet con i link annessi. C'era anche la possibilità di scaricare gratis altri due lavori sempre firmati, sì. L'Alabayer, che è Mai Nulla di Troppo, e The Italian Alcohol EP. Esatto, Mai Nulla di Troppo è un album sempre del 2011, coevo, sono usciti praticamente insieme e è fatto da registrazioni casalinghe, quindi è di qualità audio inferiore, però non meno bello, mi piace pensare. Contiene alcune cover tradotte in italiano e alcune canzoni che non sono poi confluite nell'album vero, diciamo, quello ufficiale. E è disponibile, tra l'altro l'ho buttato fuori con una net label che gestisco, che si chiama Vive Rivive, e pubblica gratis album italiani cantati in italiano. E poi l'Italian Alcohol EP è invece un EP di qualità scadente che incredibilmente ha ricevuto la fortuna di essere recensito da Enrico Veronese, esatto, che ne ha parlato molto bene. Ecco, vedi, nonostante tutto lo stai stracciando in diretta in questo momento, stai stracciando in diretta il tuo lavoro, no? Invitiamo gli ascoltatori ancora ad andare al nostro sito, visto che è disponibile anche in questo momento, per scaricarsi questi lavori, per vedere quanto di falso sta dicendo adesso la labaia, nel senso che sono veramente dei signori lavori, nonostante tutto. Grazie. Dai, sì. Diciamo così, altrimenti partiamoci, ci facciamo del male in principio, no? Naturalmente stiamo scherzando, ci stiamo ridendo un po' sopra anche su questa situazione. Comunque, appunto, ricordo, il nostro sito è www.bluradioveneto.it e cliccando all'interno dello spazio live trovate la notizia riservata alla Bayer, così conoscete anche quello che è il suo nome normale, oltre a quello che è il suo nome d'arte, appunto, la Bayer. Ricordiamo come ti chiami? Andrea Vascellari. Ecco qua, Andrea Vascellari, bene, perché poi naturalmente le firme delle tue canzoni ci sono in tutto il disco, sì. Quindi ecco, se vedete Lala Bayer è sotto scritto, prodotto e suonato da Andrea Vascellari, è sempre lui. Sì, esatto. Diciamo questo. Poi un'altra cosa che volevo ricordare, all'interno del nostro Facebook, alla pagina Blu Radio Veneto Rock Wave, troverete anche le foto che scatteremo in questa serata alla Bayer, così vedrete anche quella che è la chitarra che si è portato appresso. Sì, ecco, fa sempre un po' ridere, non so come mai. Siete partiti da prima, forse perché c'è abbiamo un'altra ospite, no? Una accompagnatrice che vabbè, faceva qualche battuta riguardo la chitarra. È un custode, in realtà. Ah, è un custode della chitarra. È un custode nel senso della parola, nel senso che non una custodia, ma un custode. È un custode perché live suono con altri tre ragazzi. Sì. E lei è una di questi e si chiamano i custodi. Benissimo. Ho capito, quindi abbiamo. E poi magari parleremo anche un po' delle esibizioni live di questo Lala Bayer assieme appunto ai custodi che hai appena citato. Andiamo ad ascoltarci un altro pezzo da disco. Abbiamo scelto la traccia numero 3 che si intitola Grisù e poi torniamo qui in diretta radio per commentarle insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato un'altra delle verità rivestite d'ombra, adesso la commenteremo assieme a Lola Bayer, nome d'arte di Andrea Vascellari. Allora, subito quando si legge la copertina vedi scritto Grisù, magari puoi pensare al draghetto, ma invece si parla del gas, del gas delle miniere che si chiama Grisù, forse proprio per quello, anzi sicuramente per quello che il draghetto si chiama così. Sì. Comunque una canzone molto triste che ci porta molto sotto. Cosa succede sotto? Succede che c'è, non lo so, avidità, forse. Ho trovato. È uno spunto che mi ha dato un mio amico, tra l'altro. Non sapevo fino a qualche anno fa cosa fosse il grisù. Anch'io, io pensavo fosse solo il draghetto. E invece c'è il gas delle miniere, che è in odore incolore letale. Certo, la componente di metano al 77%. Ecco, diciamola. E i minatori. Perché ha studiato chimica, lo sa. Per quello. Ecco. A me mancano tutte quelle nozioni scientifiche. Sì. E i minatori portavano giù i canarini perché, avendo i polmoni più piccoli, erano i primi a crepare ad accorgersi se c'era sto grisù. Era abbastanza un simbolo di avidità, no? Che si continua a scavare nonostante il rischio. Musicalmente un pezzo molto ostico. È cupo, molto cupo. Quasi oscuro al 100%, con filo lieve di luminosità. Sì. Volutamente grigio sottoterra, sì, questo sì, è chiaro. Esatto. Deve essere così. Però è ostico, nel senso, tu l'hai messo nella terza traccia. Sei stato coraggioso perché dà un certo peso in giù, secondo me. Sì, quello sì. Però dopo, dai, è in mezzo. Sì, dopo c'è la risalita. È in mezzo perlomeno a due canzoni un po' più. Sì, un po' più movimentate. Allegre, sì. Forse no. Però, no, però movimentate, sì, nel senso, esatto, musicale del termine. Sì. Mentre qui giù è molto duro. Possiamo dire anche duro, oltre a ostico, duro musicalmente. Ho cercato nel CD di alternare di mettere ben distanti tra di loro, insomma, le canzoni più cupe e inframmezzarle da quelle, se si possono definire. Una nenia quasi rumorista, possiamo dire questo, se sei d'accordo. In questa sicuramente sono stato ispirato tanto dal primo album dei Low, dai primi due album, certo, che erano proprio minimali. Assolutamente minimali. Proprio. È vero. Ricordiamo appunto che all'interno di questo disco ci sono anche i testi, che sono anche assolutamente delle poesie e meritano di essere seguite anche mentre c'è la canzone che va. Consigliato, grazie, naturalmente l'ascolto con le cuffie per questa canzone. Sì, sicuramente. Da ascoltare prima di andare a dormire, sarebbe quest'album. Tanto per rilassarsi, per trovare quel. Se si ha quell'orecchio che non viene intristito, ma viene, certo, rilassato. Mi piacerebbe pensare che servisse per rilassarsi in quella forma di defaticamento, esatto, si può dire così. Bene, allora Lola Bayer, c'è anche un sito che ti riguarda, sì, che è lalabayer.com. cosa c'è all'interno di questo sito? Cosa troviamo? Trovate i concerti, le prossime date dei concerti e vari link, le recensioni, le news soprattutto. C'è un piccolo angolino in cui ci sono news aggiornate molto frequentemente tramite Twitter, e poi soprattutto i testi e la discografia, parte della quale, una gran parte, può essere scaricata gratuitamente. E ci sono anche dei video. E ci sono anche alcuni video, sì. Cioè, sono appena usciti due video per di questo CD. Uno è di Desiderio, che è la canzone che ho suonato live prima. Sì. E una è di Neve, che magari vi suono più tardi. C'è più tardi, esattamente. E se vedete, se siete curiosi, carissimi ascoltatori, siete andati anche a vedervi il sito, appunto lullabayer.com, scritto proprio Lulla Bier. Ecco, vedete appunto le due immagini riservate ai video, quindi c'è la parte, il primo con le nuvole, che dovrebbe essere il Desiderio. Sì, Sì, sì, il primo video è Desiderio, è stato fatto da una regista veronese. E il secondo, quello che rappresenta Neve, quello che c'ha quel signore a letto. Che deve ancora no, lui è viceversa. Ah, viceversa, scusa. Okay. Con le nuvole. Vabbè, comunque è ecco, un pretesto per entrare nel sito. Ogni tanto sentiamo anche in sottofondo una voce femminile che non abbiamo ancora presentato, perché Andrea è venuto accompagnato. È accompagnato da chi? Da una custode. Quindi ricordiamo, i custodi sono la formazione con cui tu ti esibisci dal vivo. Dai, sì, esatto. Sì, e quindi una formazione composta da Stefano alla chitarra, Paolo al basso e Irene. A cosa? Cosa? Ah, Irene, io canto solo. Ah, tu canti, benissimo. Ma no, non è possibile fare così un duetto chitarra e voce. Un duetto chitarra e voce. So, non l'avete preparata, però magari dopo lasciamo andare una canzone il tempo che vi mettiate d'accordo. Va bene, insomma, va bene, dai, facciamo anche questo sforzo così. Riusciamo a rallegrare la serata? No, dai, sto scherzando. La musica comunque è quella bella di verità rivestite d'ombra. E Maurizio, sì, possiamo secondo me sentire qualcosa d'altro, cosa dici? Sì, allora magari, dato che allora vi faccio chance. Perfetto, che il pezzo secondo me è un singolo potenziale, un pezzo molto allegro tra virgolette, cioè movimentato, leggero sempre tra virgolette, mm-hmm, rispetto alla tua produzione, e a me interessato molto, e fa parte della scelta che abbiamo fatto per promuovere l'album qui, mm-hmm, in radio praticamente. Ok, allora ci ascoltiamo questa chance. Sempre atteso con ansia, la speranza per ultima morirà. Le ruote scorrono veloci sopra i vagoni verso il domani, insicuri tutto quello che verrà, l'ho sempre atteso con ansia, la speranza per ultima morirà. Ok, Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questa canzone, la traccia numero 4 del disco di Lalla Bayer, si intitola Chance, una canzone che parla di questo tempo che fugge, di queste che sono le possibilità che poi non si avverano. Cosa succede, esatto, in questa canzone? Succede proprio quello, l'hai spiegato bene, è un'opportunità che svanisce. E magari perché non sia mai il tempo e la voglia di coglierla. Anche perché poi c'è una frase che mi è rimasta così impressa per quanto riguarda la canzone. Dice: le ruote scorrono veloci sopra i binari portando i vagoni verso il domani. E fino a qua va bene, sembra attiva, sembra quasi positiva, ci aggiungi insicuri. E questo butta giù tutto. Un po'. Ecco. Sì, sì, sono nel senso che non avendo colto un'opportunità, quando questa fugge non si sa mai se era qualcosa di positivo, di negativo, non lo si potrà mai sapere, in quel senso non c'è nessuna sicurezza. Si rimane sempre nel dubbio. Però musicalmente è un pezzo molto positivo, perché questa melodia incastonata su questi lievi tocchi di chitarra dà positività. Sì, è una melodia vera e propria. Questa D'altro canto, alla fine della canzone dico che la speranza è l'ultima a morire, certo, quindi certo. Ci saranno sempre altre occasioni, no? Certo, quindi avevo probabilmente la più positiva del disco. Altre chance. Vabbè, è anche la più semplice del disco. Sì. Anche diciamo che questa è proprio quella che si diceva prima, Maurizio, quella che potrebbe essere la canzone che può trascinare tranquillamente l'album. Certamente, il cosiddetto singolo potenziale che si usava una volta. Bene, allora adesso direi che potremmo ascoltare ancora un brano da disco. E intanto Lalla Bayer si mette d'accordo con uno dei suoi custodi, in particolar modo con Irene, che è venuta a farci compagnia in questa serata, e poi magari riusciamo a sentire anche la melodia con la voce di Irene. Benissimo, allora scegliamo la traccia numero 5 per proseguire nell'ascolto di questo lavoro di Lalla Bayer, che si intitola Verità rivestite d'ombra. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un'altra traccia un po' più forte, un po' più corposa, con delle sonorità molto vibranti, con una chitarra elettrica sempre presente in sottofondo. Questa è Ciclette, sempre a proporcela Lola Bayer in questa serata di martedì 13 settembre del 2011, mentre siamo sempre io, Flavio Bilato e Maurizio Calzavara ad ascoltare, ad avere la fortuna di ascoltare in diretta queste belle musiche e poterle proporre anche ai nostri ascoltatori. Salutiamo anche il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che organizza tutti i live, e salutiamo anche la Rossella, che ci segue sempre ogni martedì delle trasmissioni e di Flavio. Senza di questo saluto Maurizio domani non può entrare in possesso dei suoi quotidiani. Esattamente. Bene, non svegliamo altro. Bene. Allora, Lola Bayer, questa Ciclette, questa sonorità un po' più tenace, decisa, diciamo. Quasi psichedelica, cosa sì, dici? Diciamo sì, quasi psichedelica. Slow core che si allarga, si allunga. Ci sta. È una canzone che basata tutto sul crescendo strumentale, ovviamente parte dal silenzio, quasi da poche note, e poi si allunga, con le voci si moltiplicano, c'è una chitarra baritona che tiene sempre la stessa nota in sottofondo, un drone lungo, e sì, può essere assolutamente psichedelica. Il trucco del drone con la stessa nota lungo risale agli anni 60, certo. Prima ancora dei Velvet Underground, quindi sì. Poco di nuovo, però mi piace. I Velvet erano specializzati in questo praticamente. Esatto. Sì, tu prima, parlando dei genitori dello slowcore, hai parlato del Paisley Underground, ma c'era già tutto probabilmente nei Velvet Underground. Sì, però dobbiamo sottolineare il Paisley Underground è la West Coast, mentre i Velvet è la East Coast, esatto. Quindi già oscuri per se stessi la East Coast, sì, quindi già oscuri. Ma l'ossessione, la nota ripetuta è una tua caratteristica in questo disco. Sì, è un effetto, insomma, che aiuta sicuramente la meditazione. Nella musica indiana c'è sempre un drone di sottofondo a ogni canzone, un suono ripetuto, la stessa nota ossessivamente ripetuto, esatto. Ok. Allora, visto che abbiamo Irene che ha il suo microfono già in mano, già pronta per partire con una canzone, cosa le facciamo cantare? Allora, vi cantiamo Neve, che è l'altra canzone di cui è stato fatto il video. Da sì. Stefano, tra l'altro, che è un bravissimo videomaker, oltre ad essere un altro dei custodi. Magari adesso ti sta ascoltando. Ciao! Se ci stai ascoltando, ciao! e lo potete vedere su YouTube, adesso lo ascoltate, insomma, come viene qua live. Salutiamo anche Paolo. Esatto, che ciao, è un bassista, Paolo. Che però non ha fatto il video, e quindi lo salutiamo a metà. Sta studiando per due esami, in bocca al lupo. Ok. Oh, poi si scioglierà. Si scioglierà. Lasciando un vuoto che tu nasconderai. Poi si scioglierà. Lasciando Radio Sera. E mi sento di dire che dalle cose improvvisate nascono anche le cose migliori, quindi abbiamo ascoltato davvero un bel pezzo, si intitola Neve, si trova all'interno del nuovo CD di Lulla Bayer, si intitola Verità rivestite d'ombra. E in questa canzone suonata rigorosamente live all'interno dei nostri studi di Blu Radio Veneto c'era Lulla Bayer accompagnato da Irene, che figura anche nella formazione dei Custodi, perlomeno si chiamano così, sono una formazione di angeli. Non so come mai il nome Custodi. Il nome Custodi è venuto fuori perché ci è capitato di fare prove in un posto in cui non si poteva far prove, in cui non si poteva proprio entrare. Comunque era molto lugubre e c'erano ancora i vestiti del custode che 10 anni fa abitava in questo posto e siamo rimasti abbastanza inquietati. Ovviamente non possiamo dire in radio dov'è perché... perché il custode è ancora vivo. È nato così. Il custode non lo so. Però, se non lo fosse, sarebbe ancora più inquietante quel posto. Benissimo. Comunque, sì, si confaceva un attimino anche con quelle che sono le atmosfere. L'atmosfera un po' scure, dark del disco. E comunque, insomma, Irene era timorosa di non riuscire a cantare, ad esprimersi. Invece, ci sei riuscita. Irene. Sì, dai, abbastanza. Abbastanza, anche perché era una così improvvisata. Un'improvvisata, chiamiamola, è comunque un'improvvisata di classe. E parlando di questo pezzo, posso dire che questo è il pezzo culmine, fulcro del disco, sei d'accordo? Sì, forse. Tutti quanti lo avvicinano al tuo grande idolo, il leader dei Red Hot Painters. Sì, esatto. Ma è così, effettivamente. Chiaramente questa versione era molto bella. Addolcita dalla voce di Irene, ed è particolare per quello, però musicalmente nel disco è proprio il pezzo più importante, secondo me. Sì, perché racchiude il tuo modo di suonare. Sì. Con Neve, sicuramente. Sì, sì. Bene. Sì, abbiamo capito questa neve, ma adesso Maurizio, sì, abbiamo anche il tempo per porre una domanda sia a Lulla Bayer, certo, Andrea Vascellari, sia a Irene, che abbiamo appunto ascoltato nella voce poco fa, per chiedere quelli che sono i gusti musicali, naturalmente oltre le atmosfere dark, oltre agli artisti che abbiamo citato mentre percorrevamo appunto il disco in lungo e in largo, vorremmo capire anche se c'è dell'altro all'interno di quella che è la sonorità musicale che piace a Lulla Bayer. In generale, per quello che ascolto di solito, diciamo, ultimamente ascolto praticamente solo questo, anche perché da un po' di tempo scrivo anche per una webzine e mi Onda Rock e mi occupo di slowcore praticamente. Praticamente sì, sì. Soltanto ma al di là dello slowcore, al di là di questo io insomma ho cominciato anni fa, ero convinto che l'unica musica che valesse la pena di essere ascoltata fosse quella creata tra il 65 e il 75, quindi ascoltavo proprio musica diciamo da Bob Dylan, da Like a Rolling Stone, soprattutto i Pink Floyd, che sono tuttora il mio gruppo preferito. Ma in certa situazione pensiamo anche noi che la musica sia veramente nata intorno a quegli anni. Ero già stato creato tutto, anche i Velvet Underground sono di quegli anni là, 67, il famoso album creato da Andy Warhol, La Banana, esatto. Quello della banana, sì. Insomma, lì hanno anticipato di 20 anni musiche che dopo sono venute fa, hanno anticipato il punk, hanno anticipato la psichedelia degli anni 80, del Paisley Underground, e un sacco di cose. Hanno fatto canzoni pop che neanche adesso le fanno così bene. Ma parlo anche insomma dei grandi, di Jethro Tull, un gruppo che mi piace da morire, Pink Floyd. Tanti, insomma quelli soliti, Led Zeppelin, anche il prog, Genesis, Queen Crimson. Il prog italiano ti piace? Il prog italiano non sono molto ferrato, mi piace molto la PFM, sono andato a sentirlo in concerto, i primi 3 album sono veramente belli. Quindi Storia di un minuto, poi c'è per un amico niente, e per un amico, esatto. Cioè, 3 album focali della prima produzione della quelli PFM. Lì sono bellissimi. Insomma, migliori secondo me di molti album storici del prog inglese. Tipo li paragonavano tutti agli Emerson, Lake and Palmer. Certo, anche perché poi hanno fatto anche alcune versioni proprio per il mercato inglese, visto che avevano anche così tanto successo. Sono stati l'unico gruppo italiano a stare nei primi 200 nel Billboard americana. Quindi e tra l'altro i testi glieli aveva fatti il paroliere dei King Crimson, Pete Sinfield. Esatto. Pete Sinfield, un grandissimo musicista. Mi pare. Lui ha fatto 2 album solisti. Io ricordo Steel, che aveva una copertina meravigliosa, Flavio. Steel di Pete Sinfield. Copertina meravigliosa. All'epoca si usava a fare le copertine. Il creatore di tutti gli album, le copertine degli Yes, Roger Dean, straordinario. E aveva questa maniera, anche gli stessi album di Moody Blues erano proprio dei quadri d'autore. Una volta c'era questa caratteristica, adesso si è un po' persa. Purtroppo col CD sono tutto piccole cose piccole, non hanno peso. Il vinile è un'altra cosa. Anche perché dava la possibilità di esprimersi attraverso un quadro, perché diciamo che quella la piattaforma, diciamo, dove c'era anche la foto per i King Crimson, la foto quella con la bocca tutta aperta. Quello cos'era? È incredibile. Quello dell'uomo. The Crimson King. Esattamente. Sì, eccolo là, benissimo. Era stupenda solo la copertina, andava, e poi naturalmente anche tutto il disco dentro. Però voglio dire, una parte importante in quel periodo ce l'avevano anche le copertine. Sentiamo anche un po' i gusti musicali di Irene. I miei gusti musicali sono un po' differenti, cioè molto differenti. In realtà io presto solamente la mia voce perché mi è stato pregato di farlo. Addirittura. No dai, diciamo che aiuto e mi fa molto piacere in questo progetto. Però non sono una fan dello slowcore, ma non... sono belle canzoni, sono belle musiche, ma la premessa è sbagliata, cioè non sono una persona adatta forse per questo genere. Preferisco ascoltare musica più rumorosa, musica forse più allegra, forse perché sono più inquieta sicuramente di Andrea e non ho bisogno di distaccare la mente, e forse ascoltando questo tipo di canzoni penso troppo a me. E quindi preferirei pensare ad altro e ascoltare canzoni più però adesso ci forse. Devi dire 3 nomi allora. No sì. Però apprezzo molto il cantautorato italiano, De André, Battiato, queste cose qua comunque, nonostante non siano super allegre, mi piacciono. Se no, vabbè, come tutte le ragazzine andavo in discoteca pure io, musica più normale forse, più ballabile ecco, sì, esatto. Anche perché poi ognuno di noi ha un proprio percorso, no? Sì. C'è chi parte da un tipo di musica per arrivare a un altro, chissà magari tra qualche anno la Bayer si potrà ancora... Ho passato una fase in cui ascoltavo tantissimo synth pop, Ecco, anche di anni 80, ma anche recente, e tuttora mi piace un sacco. Insomma, ci deve essere sempre un contrappeso, no? A, certo, a quello che si ascolta. Sei stato anche Radiohead tu all'inizio? Sì, sì, sono ancora uno dei miei. Ok, Computer probabilmente è il mio album, quello da Isola Deserta. Ho capito, da portare su un'isola deserta. Benissimo, allora vediamo se ci piace anche un'altra canzone dell'album. Questa volta diamo spazio alla traccia numero 7 che ci sta aspettando sul player numero 1. Una traccia che si intitola Schiavi, quindi un'altra Schiavi. Traccia assolutamente allegra dal titolo. E niente, ce l'andiamo ad ascoltare e poi torniamo a commentarla. Radio Sera. un sottofondo elettronico, sempre atmosfere molto dark, però adesso ci stiamo prendendo quasi gusto, stiamo entrando, sì, stiamo entrando sempre di più in questo mondo, in queste sonorità che ci sta proponendo Lala Bayer con questo suo ultimo lavoro che si intitola Verità rivestite d'ombra. Lo ricordo più volte perché magari sempre nuovi ascoltatori dicono: ma cosa stiamo ascoltando? Mm-hmm. E allora un motivo in più per andare in cerca del disco. Anzi, ricordiamo, Andrea, come fare per entrare in possesso di questo CD? Beh, lo trovate in alcuni negozi. E adesso non saprei dirvi quali, comunque è in parte distribuito anche da Goodfellas, che è una distribuzione ottima quella, sì. Goodfellas. E l'etichetta è Silentes, che è un'etichetta che fa soprattutto musica ambient, dark ambient, però produce anche i Le Mask, che è storico gruppo italiano di poeti, cioè, indie, possiamo dire assolutamente indie. E poi ho avuto la fortuna di fare il CD con loro, e quindi lo trovate tramite Silentes e i negozi che lo distribuiscono, oppure tramite il mio sito, che ve lo spedisco, basta che cliccate su buy e ve lo spedisco direttamente io. Puoi citare, Andrea, qualche altra data, se hai qualche data adesso da fare? La prossima è domenica in un locale vittoriese che si chiama Bianconiglio, e suono insieme a Massimo Saccarola, che tra l'altro è stato ospite qua, da voi qualche mese fa. Esatto. E dato che tutti e due abbiamo pubblicato qualcosa per questa net label Vive Rivive, e sarà, si chiama Vive Rivive dal vivo, uno scioglilingua, e insomma è, l'entrata è gratuita dalle 7 di sera all'ora dell'aperitivo, ci si può rilassare insomma sul prato, e bene, ottimo. A Vittorio Veneto. Quindi a Vittorio Veneto, Bianconiglio, mi ricordo tanto quel il coniglietto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ecco, bene, Bianconiglio. Allora, Lala Bayer, un'altra canzone live. Allora, assieme a Irene? Questa no. La prossima. La prossima, sì. Questa qui è tratta dall'altro album, che è Mai Nulla di Troppo, che potete scaricare gratuitamente dal sito, e si chiama Nel Suo Azzurro. E è molto ispirata ai Galaxy 500, però, allora è ottima al 100%, però adesso ve la faccio alpeggiata e verrà molto diversa, okay. Però il punto è quello, insomma. Sembra un paradosso che Radio Sera. Blu Radio Sera. La canzone che adesso abbiamo ascoltato dal vivo e che comunque è scaricabile all'interno del nostro sito, ma anche del sito di Lola Bayer, quindi a lulabayer.com. Poi naturalmente seguite le istruzioni e capitate all'interno del link per scaricarvi l'intero CD, così da apprezzare ancora di più la musica di Lola Bayer. Questo era dall'album Mai Nulla di Troppo, che comunque ha la stessa età di quello che stiamo presentando, sì, invece sì, in supporto, diciamo, CD. Ecco Evo. Ecco, ecco. E quindi come mai hai scelto due strade? Perché le canzoni che non, per un motivo o per l'altro, non sono confluite nell'album, diciamo, avevo già deciso con che struttura doveva avere Verità rivestite d'ombra prima di registrarlo in maniera più professionale. E quindi le canzoni che sono rimaste fuori dalla tracklist, insieme ad alcune cover, a me piace tradurre in italiano. Specifichiamo che cover, tu l'hai detto a me, però voglio sentire anche dai vostri ascoltatori. Di gruppi, ci sono due cover di due gruppi slowcore, uno è Rivulez, che è uno dei miei massimi ispiratori, e uno sono i Coastal, che sono un gruppo, insomma, molto, hanno fatto due album bellissimi, hanno venduto pochissimo, quasi niente, e sempre americani, però molto poetici, e allora ho tradotto due loro pezzi in italiano e sono confluiti anche questi dentro il CD. Ma hai ancora qualcosa nel cassetto che non hai pubblicato, sia dal punto di vista della pubblicazione ufficiale e quella non ufficiale? E già ancora qualcosa hai? Sì, sicuramente ci sarà il seguito dell'Italian Alcol EP, che l'Italian Alcol EP è un EP di tre canzoni in italiano, che però sono delle cover, sono canzoni tradotte di tre artisti, tra cui sempre hai citato Slowcore, e ne ho in progetto un altro, ho già avuto l'autorizzazione dall'autore, saranno tre pezzi di Gravenhorst, che è un inglese questa volta, tradotti in italiano, sempre stesso genere, e sarà sempre vorrei fare una serie di EP di Italian qualcosa EP, insomma, mi piace far cover, sì, per far conoscere anche il genere in Italia, che non, sì, è, non, ecco, è conosciutissimo, ecco, esatto. E come si ottiene l'autorizzazione? Scrivi direttamente all'artista? Sì. Come? Sì. Sì, tanto è tutta gente, insomma, ce ne sono ben pochi di professionisti, anche tra quelli famosi, insomma, gli stessi Lowe o Kozelek dei Red House Painters non credo facciano una gran bella vita piena di soldi, diciamo. Vivono, sì, loro sicuramente vivono di musica. I Lowe sì, sicuramente. Sicuramente, però non credo, insomma, facciano una gran bella vita. E tutti gli altri hanno altri lavori. Mi è capitato di intervistare per Onda Rock uno dei miei idoli, che è Jessica Bailiff, il mese scorso, che è una, fa drone folk ma slowcore, anche una ragazza americana, e insomma ho avuto coraggio di chiederle se si guadagnasse da vivere suonando, e mi ha detto che lavora 5 ore al giorno, 8 ore al giorno per 5 giorni in un laboratorio fotografico, insomma, che per lei è un costo al netto di tutta la musica, non è un guadagno, quindi rispondono volentieri alle mail quando qualche fan gliele manda. Anzi, sono quasi stupiti, sì, che qualcuno, sì, voglia anche tradurre, diciamo, le canzoni. Sono tutti entusiasti, sì, è vero. Assolutamente sì. Cose che in un mondo, diciamo, normale, musicalmente parlando, questo non succede quasi mai. L'artista è, diciamo, lontanissimo da quello che è il pubblico e da quello che i fan. Difatti nascono i vari fan club, che sono di solito gestiti da terze persone, che non sia, in questo caso qua il fans club è gestito proprio dalla persona che fa anche la musica. È, diciamo, vero, è vero. Bene, allora un ultimo pezzo che ci ascoltiamo dal disco e poi ci lasceremo con un altro pezzo live, è la traccia numero 8, che porta un titolo allegro? Di chiusura. Un titolo di chiusura, di fatto, proprio è Crepuscolo. Ecco, una nota che aveva fatto Maurizio proprio nella presentazione del disco è che proprio i titoli delle canzoni sono brevi. Sì, sono tutti di una parola. Una parola. Minimali anche i titoli. Esattamente, minimali. Minimali, sì, anche i titoli. Allora ci ascoltiamo questo Crepuscolo e poi torniamo in diretta per i saluti, ma poi sappiamo che avremo anche un'altra sorpresa. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Radio Sera. Ed ecco qua, abbiamo ascoltato l'ultima traccia da disco, da queste verità rivestite d'ombra, si intitola Crepuscolo, con un tocco, sembrava quasi di xilofono. Cos'è? Esatto, è vero. È un come si chiama? Adesso non mi viene la parola. Non è esattamente uno xilofono, no. Ma un... quanto tempo dura la trasmissione? Fino alle 22:30. Allora non mi verrà mai in mente uno strumento che assomiglia, sì, che... è uno xilofono piccolino che si chiama di quelli tascabili quasi da bambini, sì, no? Quelli che gliel'ha prestato un nostro amico, magari ci ascolta e adesso non mi viene in mente. Vabbè. Beh, quello là è quello strumento, quello strumento là comunque l'abbiamo capito, sempre formato da bastoncini metallici picchiati da bastoncini di legno, no? Benissimo. Tra altre cose, mi è incuriosito molto vedere nel tuo sito Glockenspiel, Glockenspiel, quindi il gioco delle campane in tedesco, dovrebbe essere, sì, ecco qua. Bene, allora lullabayer.com è il tuo sito. Torniamo a parlare un attimo di questo sito, perché ogni serata che hai fatto l'hai sempre, come dire, commentata per cui ci sono dei commenti sinceri. Non è che dici alla gente che guarda per la prima volta il sito: c'era una marea di gente, no. Non ci stavano tanto, più dentro al locale. Cioè, tanto non ci credono, discreto, cioè, anche se lo leggono. Discreto, proprio poca gente, oppure quella gente che voleva ascoltare la mia musica. Sì, oppure la tensione sul palco di quando ti sei esibito per la prima volta da solo, proponendo con coraggio, dici così, le tue canzoni. E quindi temendo alcune persone delle quali riuscivi a vedere anche gli occhi davanti a te, quindi è un diario di bordo quasi. Quindi un diario di bordo dove appunto si vedono quelle che sono le emozioni di uno che fa questa musica per passione più che per il guadagno. Ah, infatti, sicuramente. Assolutamente. Comunque ricordiamo che sia in alcuni negozi specializzati di questa musica, sia tramite il sito lullabuyer.com si può entrare tranquillamente in possesso dell'ultimo lavoro, e ricordiamo che è altresì scaricabile, anzi sono scaricabili due lavori, Mai Nulla di Troppo ed Italian Alcohol EP, e poi chissà quanti altri lavoretti si preparerà, come aveva detto prima Andrea. Allora, noi a questo punto, come si diceva prima, ci avevamo anche preso gusto ad ascoltare, certo, no? Purtroppo avevamo sdoganato low cost, siete purtroppo messi in pigiama intanto, siete già pronti. Siamo già pronti per partire, quindi prima di scattare il primo ronfo, come si dice, dobbiamo salutare Andrea, salutare Lala Bayer, e quindi dirgli torna ancora a farci ascoltare la tua musica, e buon rientro in quel di Vittorio Veneto. Grazie mille, ciao a tutti, è stato un privilegio essere qua. Grazie. Quindi a te. Allora, però, prima di lasciarci, visto che c'è anche Irene, salutiamo sì, Irene. Sì, ciao. Ciao, grazie di essere grazie stata in nostra compagnia. Ricordiamo che Irene è una dei custodi, ecco, esatto. Quindi magari nel sito, se c'è qualcosa di particolare ancora di dire dei custodi, magari lo inseriamo, parlando anche di quella che è stata la serata con Blu Radio Sera, Blu Radio Veneto. Benissimo, allora io e Maurizio salutiamo, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, noi ci sentiamo presto, vi lasciamo assieme a Lola Bayer, assieme ad Irene, per un'ultima canzone che si intitola Scosse. Eccola qua, Scosse. Buonanotte a tutti. Guardala, restare. sapori familiari, la sua ninfa scorrerà, attuerai le sue volontà. Radio Sera.